In genere non si parla molto del rispetto nell'ambito del matrimonio e non è dichiaratamente incluso nelle solenni promesse matrimoniali. Tuttavia è fondamentale per una unione lunga e serena. Il dizionario definisce rispetto quel sentimento di stima, di considerazione, di riguardo verso la dignità altrui, che ci trattiene dall'offendere gli altri, ledere il loro diritto o menomare i loro beni. Come mettere in pratica questa virtù nel matrimonio? Innanzitutto, il rispetto non è ammirazione. Quando ci si innamora, si ammira l'altro, lo si guarda con ammirazione. Come un bimbo idealizza il genitore. Questa ammirazione romantica nasce e dipende dall'illusione che lui o lei sia il tuo ideale. Ma arriva il momento in cui ti rendi conto che la persona che hai sposato non è esattamente come pensavi. Ti rendi conto che ci sono delle differenze, grosse differenze, il modo di affrontare la vita, di fare le cose, di esprimere valutazioni morali. Tu provi a far combaciare l'immagine del tuo partner con quella della tua fantasia, ma ti rendi conto che è come far entrare una gomena nella cruna di un ago. Alla fine sei esausto. Ecco che, allora, per far durare il matrimonio e farlo crescere, è meglio accettare le diversità e imparare a lasciare che ognuno sia realmente se stesso. Questo vuol dire rispetto, una virtù che si sviluppa tra persone con un rapporto alla pari. Diversamente si deve parlare o di sopraffazione o di mortificazione. Sopraffazione perché uno impone all'altro il suo punto di vista o un certo comportamento, di mortificazione perché per il quieto vivere uno dei coniugi manda giù magoni e magoni e per questo si cade nella critica. Forse il principale sintomo e arma della mancanza di rispetto. Criticare è semplicemente quel gesto di giudizio, per biasimare e disapprovare un certo modo di parlare o di condursi. Questo atteggiamento è tanto comune nel matrimonio, meno e non solo meno che ormai nessuno se ne rende conto. Mio marito l'altro giorno ha fatto questo e questo, dice la sposa ad un'amica, e dal tono si capisce che condanna tale comportamento. O il marito si lamenta con altri perché la moglie non è quella che vorrebbe. Che male ci è, si direbbe, a mettere in luce certi difetti? Non siamo perfetti, certo. Ma, in questo modo, che rispetto possono avere gli altri del nostro partner? Se tu stesso non hai rispetto, possono gli altri averne di più? Forse non tutti hanno fatto caso, ma la Bibbia, il libro che faceva e fa parte dell'educazione degli ebrei, nel presentare una donna virtuosa, mette in evidenza il rispetto di questa nei confronti del marito. Così troviamo scritto nel libro dei Proverbi. Chi troverà una donna forte e virtuosa? Il suo valore è di gran lunga superiore alle perle. Il cuore di suo marito confida in lei. Ella gli fa del bene e non del male, tutti i giorni della sua vita. Suo marito è stimato alle porte, quando si siede fra gli anziani del paese. PR 31.1013-23. Dunque, una moglie virtuosa è considerata non tanto per le sue capacità innate, come saper suonare, cantare, scrivere, eccetera, ma dal fatto che non fa nessun male a suo marito per tutti i giorni della sua vita, così che egli sia stimato dagli altri. E per essere stimato dal prossimo, per forza di cose, prima di tutto deve essere stimato dalla moglie. Una moglie che mette sempre in evidenza i difetti del marito non permette che questo sia rispettato dagli altri. Ero stato invitato a mangiare da una coppia di sposi che conoscevo di vista e, durante la conversazione, la moglie metteva del continuo in evidenza le mancanze di suo marito. Voleva colpirlo, sembra incredibile, ma è vero. E questo perché si sentiva schiava di una situazione, perché nel suo cuore nutriva molti rancori nei confronti di colui che l'aveva sposata, al punto che si sentiva imbrogliata dal marito perché questa l'aveva sposata. Stava vivendo il matrimonio come una condanna. Come poteva questa moglie avere rispetto del marito? Come poteva suscitare negli altri il rispetto verso colui che aveva sposato? La critica è distruttiva quanto l'aceto negli occhi. Eppure, pur sapendo che la critica è così deleteria, tra gli sposi è spesso usata. Perché? Perché si pensa di far del bene. Si pensa che possa essere utile per migliorare il partner, ma i risultati sono invece l'opposto. A nessuno, ma proprio a nessuno, piace sentirsi accusati o ripresi da uno spirito di critica e in pubblico. Mentre una chiacchierata serena, onesta, privata, fatta con rispetto, può produrre risultati cristiani inaspettati. Dobbiamo tenere presente che chi cambia le persone è Dio. E solo Dio. Perciò, se vogliamo aiutare in modo caritatevole il nostro coniuge, dobbiamo usare i metodi di Dio. E i metodi di Dio passano tutti per il corino dell'amore, quell'amore che è condito soprattutto dal rispetto della persona altrui, dall'accettazione della persona con i suoi limiti e dal parlare e agire in modo redentivo, cioè con lo scopo di aiutare e non di colpire. La differenza è enorme. Ma com'è possibile avere del rispetto soprattutto nel matrimonio quando si conosce a fondo una persona? Com'è possibile avere del rispetto verso il proprio coniuge quando ogni giorno i tuoi occhi e le tue orecchie ne vedono del continuo le insufficienze e manchevolezze? Il rispetto, come l'amore, non si può imporre. Come allora è possibile che io abbia in stima e in buona considerazione chi non è degno? Devo forse recitare una parte e dire al mio coniuge che è gentile, educato, altruista, carino e galante quando non è? Il cristianesimo insegna forse l'ipocrisia o la doppiezza? Quando un marito è nervoso o violento, lo è. Quando una moglie è rissosa, lo è. Inutile negarlo. Che cosa mi propone il cristianesimo perché io debba avere del rispetto? Oppure, che cosa mi propone il cristianesimo perché io possa almeno iniziare ad avere un certo rispetto? C. È qualcosa che mi può aiutare? Sì, la soluzione C. È per chi desidera veramente iniziare ad avere un vero rispetto verso il proprio coniuge. Diversamente non ci è nulla che lo possa aiutare. Dio dice: prevenutevi vicendevolmente nella stima. RM 12.10. Il rispetto può nascere con l'iniziare a considerare il più nuovo testamento di vista dell'altro. Quando si discute animatamente su di una cosa e si arriva alla lite o alla divisione, è perché ognuno pensa di essere nella ragione. E questo è normale. Eppure, almeno qualcuno sbaglia. Se uno non pensasse di essere dalla parte della ragione, non aprirebbe bocca. È difficile, se non impossibile, imporre all'altro la convinzione di sbagliare. E così ogni parola non fa che allontanare il proprio coniuge. Però, se nella discussione si cerca di comprendere le motivazioni per le quali uno si esprime, o perché agisce o ha agito in un tal modo, ecco cos'è stima o rispetto. Questo aiuta a comprendere meglio l'altro, ad essere più comprensivi, ad attenuare gli eventuali errori, e la discussione prenderà un altro tono. Un tono che tende a conciliare, ad essere più misericordiosi, più comprensivi. Si è convinti di aver capito l'altro, ma il più delle volte si discute per poi rendersi conto di aver avuto dei presupposti sbagliati. Ma io avevo capito. Quante volte una discussione viene interrotta con questa conclusione? Perciò il rispetto nasce e si mantiene quando si ha la voglia di comprendere il punto di vista dell'altro. Se rispettare vuol dire tenere in considerazione la dignità altrui, come faccio ad avere deferenza se non parto dal presupposto di avere una dignità da rispettare? E la dignità da rispettare non è forse anche avere stima delle ragioni del mio coniuge? Forse non ha tutta la ragione, ma le sue ragioni le ha, e queste fanno sì che io parli con rispetto e dignità, ma soprattutto con l'intenzione di aiutarlo. Il rispetto non è solo riconoscere la diversità dell'altro, ma anche apprezzarne le diversità. E per arrivare a questo ci vuole tempo, molto tempo. Occorre molto tempo, perché prima bisogna arrivare alla conclusione che non ci sono più speranze perché cambi da ciò che è. Poi inizi a comprendere che in fondo è giusto che il tuo partner sia diverso, poi ne apprezzi le differenze. E infine non vuoi più che lui cambi perché arrivi ad apprezzare le sue diversità. Anzi, ne godi. Questo rispetto fa parte della maturità di un matrimonio e non della fase di iniziale esaltazione. Questo non significa che ognuno faccia la sua strada meno, che di fatto è un divorzio nascosto e perpetrato meno, ma ognuno impara dall'altro, accettandone anche il punto di vista, fino a farlo addirittura suo. Difficile poi avere un severo giudizio quando si tratta di giudicare ciò che hai fatto tuo. Il rispetto nasce, cresce e si consolida quando si ha nel profondo del proprio essere il desiderio di stare con chi hai sposato. E anche questo desiderio e sentimento non lo si può imporre. Dopo tanti anni di vita matrimoniale, si hanno molte ragioni per puntare il dito verso il proprio coniuge, ma obiettivamente parlando si hanno anche tante ragioni per stare ancora insieme, a meno che ovviamente non ci siano delle gravi ragioni come essere violentate o continuamente traditi. Anche trovare dei motivi per gioire nella vita matrimoniale è un esercizio che occorre fare ogni giorno, dato che per un istinto naturale noi siamo inclini a essere negativi piuttosto che positivi. Il rispetto nasce nel Nuovo Testamento in cui io voglio rispettare. È evidente che se io nutro nel mio cuore risentimenti e ferite, molto difficilmente può esserci del rispetto. Perciò ancora una volta occorre prima sgombrare e sradicare nel proprio cuore ogni amarezza e desiderio di rivendicazione. E solo in seguito si potrà avere un vero rispetto. Nessuno di noi è un extraterrestre. Nessuno di noi è in grado di avere la virtù cristiana del rispetto se non la condisce con altre virtù. Perché il bel fiore del rispetto cresca, occorre un buon terreno, acqua, sole e temperatura giusta. Se manca il rispetto nell'ambito matrimoniale, molto probabilmente ci è qualcosa che lo fa morire e a noi sta il compito di indagare con la guida del Dio che ha creato il matrimonio perché fosse vissuto con rispetto. Lo vuoi tu? Se sì, inizi già ad avere del rispetto verso il tuo coniuge, e non è poco. Novembre 2009, Ellero.